Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Ta-dan! E questa era la nuova sigla di, anzi la nuova sigla, la sigla di questa puntata di Tonight Alive, la prima puntata dopo la pausa estiva. Si ricomincia con le dirette per il vostro sabato sera, qui sempre il vostro Dalai Dama a condurre Tonight Alive, a quanto pare sopravvissuto al martello della calura estiva. Sono sempre qui, non so se per vostro piacere o vostro malgrado. Comunque riparte la stagione di Tonight Alive e per ripartire dopo la pausa ho pescato nel mazzo il re. Ho pescato nel mazzo quello che secondo me è il re del rock, il vero re del rock and roll, il grande Chuck Berry. Come spero abbiate riconosciuto, questa forse è il suo brano in assoluto più famoso, Johnny B. Goode del 1959, che tra l'altro è proprio un tema tradizionale della cultura popolare americana, il ragazzo di paese che fa carriera nella grande città. È proprio un brano, un pezzo che si può dire definire già l'archetipo di tantissima parte della quella che poi verrà chiamata musica rock, che già ora viene chiamata, già ai tempi di Chuck Berry si chiama già rock. Però ecco, Johnny B. Goode penso sia proprio anche con i suoi assoli e riff di chitarra, è proprio, come si dice, un archetipo del genere. Però prima di partire, come mio solito, a raccontarvi le storie, visto che è passato un po' di tempo, è bene rinfrescare la memoria un po' a tutti, con i nostri contatti, i nostri indirizzi, per farvi sapere come fare a mettervi in contatto con noi. E ovviamente il sito è rimasto sempre lo stesso, wombat.noblogs.org. Anche la nostra casella mail è sempre la stessa, posta@insiberia.net. E i nostri canali social sempre attivi, che sono Twitter, con twitter.com/radiowombatfi, e la nostra pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-Firenze. E ritornato qua in regia dopo un po' di tempo, vedo grandi novità, e a questo punto non posso che ringraziare i nostri bene amati tecnici, che ho visto hanno fatto un gran lavoro qua in regia nei momenti della pausa estiva. Abbiamo qui adesso una console che sembra veramente quella dell'Enterprise. Mi piacerà tanto spippolare con tutti questi bottoncini e con tutti questi livelli, però un altro giorno, perché sennò poi mi tagliano le mani e non potrò più fare la trasmissione. Ma dopo questo lungo prologo, veniamo a noi e veniamo al nostro Chuck Berry, che in realtà si chiama Charles Edward Anderson Berry, detto Chuck, appunto. Era nato a St. Louis, nel Missouri, il 18 ottobre del 1926. E per farvi una breve introduzione, come di norma, se avete già sentito le trasmissioni precedenti, vi dirò un po' da dove viene il buon Berry. E Chuck era il quartogenito di una famiglia composta da sei figli, appunto nato a St. Louis, e suo padre era un diacono della locale chiesa battista. E grazie appunto a questa sua posizione, tra virgolette, privilegiata, ebbe fin subito da bambino la possibilità di coltivare la sua passione per la musica. Infatti già a 15 anni, nel 1941, ha potuto fare la sua prima esibizione in pubblico, quando ancora era appunto uno sbarbo delle scuole superiori. E solo tre anni dopo, nel 1944, quando ancora era appunto uno studente, ebbe subito la prima bega con la legge, giusto per farvi capire un po' di chi stiamo andando a parlare. A 17 anni, anzi 18 appena fatti, il buon Chuck, insieme a un gruppetto di suoi amici, andò a fare una serie di rapine nei negozi di Kansas City, e dopo la terza rapina, dopo aver rubato una macchina, viene appunto arrestato dalla polizia e farà la sua prima conoscenza con le patrie galere del sud degli Stati Uniti. E a proposito di questo spiacevole evento, lo stesso Berry, nella sua autobiografia, racconterà appunto che sono stati presi perché la macchina che avevano scelto per fuggire dalla rapina si ruppe, e quindi dovevano rubare un'altra macchina, ma in quel momento appunto passava una pattuglia della polizia, e gli assicuro un periodo di permanenza all'Hotel Mille Sbarre, appunto, dello stato del Kansas. Poi appunto venne immediatamente spedito nel riformatorio di Algoa, nei pressi di Jefferson City, sempre nel Missouri, e già dentro il carcere formò un quartetto vocale e si allenò anche facendo un po' di pugilato per tenersi in forma. E già all'inizio degli anni 50, quando poi la sua esperienza appunto in riformatorio era finita, aveva già formato una serie di gruppetti locali nei pressi di St. Louis. E suonava fondamentalmente musica blues, perché già da ragazzino la sua passione per la chitarra, stava studiando appunto. La sua tecnica chitarristica si può già dire che aveva delle grosse influenze di due grandi chitarristi del periodo. Per il suo lato più blues, sicuramente possiamo sentire un'influenza del grande T-Bone Walker, però era anche un grande ammiratore di Charlie Christian, che è stato un immenso chitarrista jazz. Sicuramente il suo stile vocale all'inizio era molto influenzato da Nat King Cole, ma anche e soprattutto dagli urlatori del blues. E sicuramente ecco, la sua svolta elettrica, quando poi un po' di tempo dopo si trasferirà a Chicago e metterà su la sua prima band ufficiale, già subito dagli inizi, affiancato dall'amico e fidatissimo pianista Johnny Johnson, che appunto poi rimarrà il suo pianista per lunghissimo tempo. E nel maggio del 1955, dietro la raccomandazione di Muddy Waters, che è stato una delle ultime, se vi ricordate, una delle ultime puntate di Tonight Alive prima delle repliche estive. E appunto nel 55, dietro la raccomandazione di Muddy Waters, Chuck Berry, che nel frattempo si era già sposato, era già padre di due figli, prese e dalla natia St. Louis si spostò, come tantissimi altri del proletariato bianco e di tantissimi afroamericani che lavoravano nel sud, prese e cercò an di andare a trovare fortuna nell'industrializzato nord, e precisamente nella Chicago, dove andò a incontrare i fratelli Chess, appunto, benemerita Chess Records. Se avete appunto sentito le precedenti puntate, avete già ampiamente sentito racconti di questa benemerita etichetta. E infatti Berry pensava che il suo materiale blues potesse essere di interesse appunto per la tipologia di musica che la Chess Records stava pubblicando in quel momento, e gli portò tutta una serie di sue composizioni. Però, con sua grande sorpresa, il pezzo che piacque più di tutti a Leonard Chess fu un vecchio classico del country and western di Bob Willis, intitolato Ida Red, che Berry aveva registrato quasi per scherzo con il titolo di Ida May. E appunto il 21 di maggio di quel 1955 Berry incise un adattamento di Ida Red reintitolato Maybelline, con la partecipazione del, ovviamente, fido Johnny Johnson al pianoforte, di Jerome Green dalla band dell'altro grande chitarrista Bo Diddley alle maracas, Jaspar Thomas alla batteria e il grandissimo, di cui abbiamo già ampiamente parlato, Willie Dixon alla al basso. E ora sentiamoci appunto questa Maybelline del 1955, Chuck Berry, Tonight Alive. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Rolling on an open road, nothing out of run my VA Pro. Cadillac doing about 95, bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain, I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood, I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Like a torn lead, 110 and a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Questo appunto era il primo singolo della carriera di Chuck Berry, Maybelline, che in effetti era stato concepito sulla scia dei successi di Bill Haley, che ricordo Bill Haley and his Comets inizi 55, è un po' quello che viene definito come il singolo dell'inizio dell'era del rock and roll, con l'avrete sicuramente sentito, con Rock Around the Clock, si fa partire da lì l'inizio del rock and roll, anche se poi, come ben sappiamo, rock and roll era già il rhythm and blues che i neri suonavano con la prima elettrificazione delle chitarre, appunto, come abbiamo già visto con Howlin' Wolf e con soprattutto Muddy Waters. Però visto che la critica viene fatta di solito da specialmente in quegli anni dai critici bianchi, la data d'inizio del rock and roll è il 1955, con l'uscita appunto di Rock Around the Clock di Bill Haley and his Comets. E appunto questa Maybelline era un po', seguiva un po' la scia di quello che stava iniziando a essere un grandissimo successo, ovvero il rock and roll, anche se a differenza del sound edulcorato appunto di Haley, era suonato sicuramente con una foga tipicamente nera, questa batteria rullante, il richiamo ritmico alla ferrovia, che è un po' un grande classico di tantissime musiche nere degli esordi di quegli anni lì, della prima parte del Novecento. E Maybelline ebbe un grandissimo successo, infatti vendette quasi 1 milione di copie e raggiunse il primo posto della classifica di Billboard riservata al rhythm and blues, e la quinta posizione nella classifica generale delle vendite degli Stati Uniti, quindi un grandissimo successo. E appunto l'esplosione del rock and roll, che poi è seguita dopo i film di Bill Haley e di Elvis Presley, stava spingendo le case discografiche a lanciare cantanti rock sempre più audaci, e Chuck Berry sia nel senso musicale, perché veniva dal blues con pochissime contaminazioni country, e sia nel senso sociale, perché era nero, e un nero famoso poteva rappresentare sicuramente in quegli anni il culmine della provocazione. Appunto, dal momento in cui irruppe nella scena, la sua popolarità crebbe vertiginosamente presso i giovani bianchi, e già nell'America degli anni 50, che dei giovani bianchi siano dei fan sfegatati di un nero che suona il rock and roll, e anzi suona il rhythm and blues, è già abbastanza una pietra di scandalo, ecco. E specialmente a livello musicale nessuno era un trascinatore quanto lui. Celebre infatti nelle sue esibizioni dal vivo era il suo famoso passo dell'oca, no? E i suoi accordi alla chitarra sono veramente, appunto, nei suoi primi accordi di chitarra, già nelle prime composizioni, ritroveremo già tantissimo del rock che verrà, e praticamente tutto quello che poi verrà definito diversi decenni dopo rockabilly. E infatti la rinuncia al melisma, alla tecnica vocale tipicamente bianca, rendeva il suo canto facilmente accessibile al pubblico bianco. Anzi, scusate, il melisma era proprio una tecnica della vocalità nera, non bianca. Allora, appunto, questa cosa più facilmente accessibile al pubblico bianco. Sicuramente a livello di scrittura fu di gran lunga il più colto, fu il primo ad esempio ad introdurre una rima regolare, e uno dei più sensibili sicuramente al mutare dei costumi della società in quegli anni. Le sue canzoni raccontavano con ironia le storie degli adolescenti, fu uno dei primi a incentrare il suo occhio sulle vicende della generazione del boom americana, di questi primi ragazzi adolescenti che potevano appunto divertirsi invece di avere del tempo libero per divertirsi, invece di dover andare direttamente a 12-13 anni in catena di montaggio, oppure ancora prima in mezzo alle piantagioni. E Chuck Berry, si può dire, fu uno dei primi sicuramente a capire l'importanza del divertimento. Il fan, appunto, era ciò che voleva dire in pratica la ribellione giovanile, e il divertimento contro la famiglia e il lavoro, il divertimento contro l'autoritarismo della società, contro la moralità bigotta e contro la realtà della vita di tutti i giorni degli Stati Uniti di quegli anni. E appunto Berry non mancò mai di curare il lato esuberante dei suoi testi, il compiglio scanzonato e molto spesso e volentieri irridente. E appunto tra il 1955 e il 58 scrisse moltissimi capolavori del rock and roll. La sua carriera si svolse in una progressione esaltante, appunto dal country swingante e scanzolato di Maybelline,

I'm still living in town. But I done married and settled down. Now I really have a ball. Cause I don't browse around at all. Don't bother sleeping alone. Anyway, we almost grown. E questa appunto era Almost Grown, sempre del 1958, anno veramente magico per Chuck Berry, è pieno di ispirazione. Basti solo pensare che appunto la sigla di stasera, John, la più famosa canzone di Chuck Berry, Johnny B. Good, di quella fine del 1958, dove appunto Johnny B. Good è proprio una canzone autobiografica, Johnny B. Good e Chuck Berry stesso, dove appunto si celebra come primo vero eroe del rock and roll. In quel 1958 uscì anche il suo primo immenso album, penso che non si sia più ripetuto nella sua discografia un'altezza del genere, che era appunto After School Session del 1958, ovviamente su Chess Records. E in quel 1900 si chiude il 1958 e si apre il 1959 con ancora una serie di successi per Chuck Berry, come Carol, un altro suo gran pezzo urlato a squarciagola su un vorticoso ritmo boogie. Ma forse sempre in quell'anno il vero Chuck Berry si trova in Memphis, Tennessee, un brano sinistro e ossessivo in cui il ritmo blues, su un ritmo blues alla Jimmy Reed, si crea questa atmosfera tesa e questa cadenza unita a un clapping nel puro stile gospel e in un tempo classico del blues, che ne fa veramente un saggio sul ritmo. E quindi non mi resta che farvi sentire Carol e Memphis, Tennessee, una dietro l'altra. Chuck Berry, Tonight Alive. Jump and shout. station. Give me Memphis, Tennessee. Help me find the party. Trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information. Get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye with hurry home drops on her trickle from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. E questo appunto era Memphis, Tennessee del 1959. E Barry sicuramente sarà stato un prepotente, però sicuramente era assolutamente brillante. Una sua sfrontata voce blues inventò un ritmo fatto di un'alternanza di accordi chitarristici che riprendeva la baldanza dello stile pianistico da bar, ovvero il boogie woogie e l'honky tonk, però complicato ad libitum, cioè in continuità con figure chitarristiche che sfidavano senza scrupoli le convenzioni armoniche, e accompagnato sicuramente da un grandissimo pianista, ovvero l'amico fidato, come si era già detto prima, Johnny Johnson, che sembra quasi che suoni un ritmo tutto suo. Però ecco, questa commistione di sonorità e di dinamiche fanno appunto Chuck Berry l'inventore di una lunga serie di capolavori in questi 3 anni, che veramente ha già definito tutto in 3 anni, se possiamo dire. E nel 1959 Chuck ormai era una star acclamata a livello internazionale, ma fu accusata di violenza carnale e processato, fu condannato a 5 anni di 5 anni di gabbio, come dicono a Roma, che poi in un secondo processo verranno ridotti a 3 anni. E per commemorare questi tre anni di sosta forzata nelle galere degli Stati Uniti, adesso vi proporrò due blues di Chuck Berry. Il primo è Downbound Train del 1957 e il secondo è Confessing the Blues del 1960, appunto Confessing the Blues, fatto uscire mentre Il buon vecchio Chuck era un attimino intento a ammirare il sole a scacchi. E comunque, ecco, questa mi sembrava il momento giusto per questa doppietta di blues: Downbound Train 1957 e Confessing the Blues 1960. Chuck Berry, Tonight Alive, Radio Wombat. A stranger lying on a barroom floor had drank so much he could drink no more, and so he fell asleep with a troubled brain to dream that he rode on a downbound train. The engine with blood was sweaty and damp, and brilliantly lit with a brimstone lamp. An imp for fuel was shoveling bones, while the furnace rang with a thousand groans. The parlor was filled with lager beer, the devil himself was the engineer. The passengers were most a motley crew, some were foreigners and others he knew. Rich men in broadcloth, beggars in rags, handsome young ladies in wicked old hags. Devil, we didn't hear him home. Oh, how the passengers shrieked with pain and begged old Satan to stop that train. The stranger awoke with an anguish cry, his clothes wet with sweat and his hair standing high. He fell on his knees on the barroom floor and prayed a prayer like never before. And the prayers and vows were not in vain, for he never rode that downbound train. Radio Wombat, Chuck Berry. Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it by my, hoping that you'll understand. Well, baby, mama, please don't dog me around. I would rather love you, baby, than anyone else I know in town. This is my confession, mama, and I'm filled by all your charm. It seems that I'm in heaven when you hold me in your arms. Blowing lonely if I knew that you were mine. Well, baby, make everything all right. Can I have you today, babe, or will it be tomorrow night? Thank you. questa era Confessing the Blues, ovviamente sempre di Chuck Berry. E quando il buon vecchio Chuck uscì di galera, al posto del rock and roll c'erano questa banda di cappelloni, tutta questa serie di bande di cappelloni inglesi, la cosiddetta British Invasion, e al posto del rock and roll appunto c'era il beat, e c'erano i Beatles che vendevano un milione di copie con la cover della sua Roll Over Beethoven, i Beach Boys che avevano plagiato clamorosamente la sua Sweet Little Sixteen con Surfing in USA, che poi porterà a una causa decennale che poi il buon vecchio Chuck Berry vincerà, visto che i giudici riconosceranno il plagio della sua canzone da parte di Brian Wilson e dei Beach Boys, facendogli arrivare un risarcimento milionario. Ma c'erano anche quest'altro gruppo inglese di cappelloni che nel 1963 debuttarono con la cover di una sua canzone che la Chess aveva fatto uscire nel 1961, che si chiama Come On, e il gruppo di cappelloni inglesi in questione sono le Pietre Rotolanti, sono i Rolling Stone, e se avete fatto caso alla pagina Facebook della radio, era proprio questo la soluzione del quesito che vi avevo posto, ovvero avevo messo appunto Come On nella versione dei Rolling Stone, che non è nient'altro che una cover di un pezzo di 2 anni prima di Chuck Berry, insomma il Beatles, Rolling Stone, il beat e la musica a venire ha pagato, cioè ha un grosso debito con il buon Chuck Berry. E appunto Berry, dopo l'esperienza in carcere, sembrò diventare molto più cinico e meno artista, e seppe sfruttare la sua fama a fini economici come non gli era riuscito neppure negli anni d'oro del rock and roll, ovvero 5-6 anni prima. E appunto adesso sentiamoci Come On nella versione originale del 1961 di Chuck Berry. Radio Wombat. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on, my baby parted, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. There's some stupid jerk trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey, and you belong to me. So come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. E questa appunto era la versione originale di Come On di Chuck Berry del 1961, e poi brano con cui poi due anni dopo, nel 1963, i Rolling Stone faranno il loro debutto discografico come singolo. E tra il 1964 e il 1965 Chuck Berry pubblicò altri 8 singoli, compresi No Particular Place to Go, You Never Can Tell e Nadine, che riscossero anche un buon successo commerciale, anche se in prevalenza erano, diciamo, tra virgolette, riscritture dei suoi vecchi pezzi, come ad esempio School Days. E tra il 1966 al 1969 Chuck Berry passò alla Mercury Records, per la quale pubblicò 5 nuovi album, incluso il suo primo disco dal vivo, che è appunto Live at Fillmore Auditorium, ma questi dischi non ebbero né dalla critica né dal pubblico il successo che potevano avere in un passato le pubblicazioni di Chuck Berry, anche se sono dei lavori niente male, anche se diciamo il periodo d'oro è finito. E risentiamoci appunto di questo periodo alla Mercury, No Particular Place to Go, 1964, Chuck Berry. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Questa era No Particular Place to Go del 1969, anzi del 1964, scusate. E nel 1970 fino al 1973 Chuck Berry fece il suo ritorno alla Chess Records. E anche se il suo album del 1970, Back Home, non generò nessun singolo di successo, nel 1972 la Chess pubblicò una nuova registrazione live del brano My Ding-a-Ling, canzone che Barry aveva originariamente registrato anni addietro nel suo LP del 1968 From Sam Lewis to Frisco con il titolo di My Tambourine, e questo brano a sorpresa divenne l'unico numero uno in classifica per 2 settimane esattamente di tutta la carriera di Chuck Berry, riscuotendo appunto un enorme successo, ma una canzone che poi tra l'altro non è nient'altro che una filastrocca, e questi sono i grandi misteri della musica commerciale. E il secondo periodo di Berry alla Chess Records terminò con il disco omonimo Chuck Berry del 1975, dopo il quale non incise più niente per circa 3 anni, fino a Rocket del 1979, che è uscito per l'etichetta Atco Records, che rimane il suo ultimo album di studio vero e proprio. Poco tempo dopo, anzi in quello stesso anno, nel 1979, Chuck Berry ebbe ancora problemi con la giustizia. In questo caso venne accusato di evasione fiscale per non aver pagato le tasse inerenti ai compensi per i suoi concerti. Avendo già 2 precedenti penali alle spalle, Berry si dichiarò colpevole di evasione fiscale e venne condannato a 4 mesi di prigione e a oltre 1000 ore di servizio civile da scontarsi facendo concerti benefici. E poi Chuck Berry continuò a dare concerti per tutto il resto della sua vita, addirittura nel periodo di fuoco, appunto quello delle 1000 ore di servizio civile e dei concerti benefici. All'inizio degli anni 80 faceva anche qualcosa tipo 100 date in un anno, veramente un ritmo forsennato. E Chuck Berry, non so se lo sapete, si è spento poco tempo fa, il 18 marzo del 2017, alla veneranda età di 90 anni, nella sua residenza di St. Charles nel Missouri. E proprio in quei giorni era in corso la fase di post-produzione del suo ultimo videoclip per il suo nuovo singolo Big Boys, uscito poi postumo. E vi volevo, prima di fare il commento finale, vi volevo anche far ascoltare un'altra famosissima canzone di Chuck Berry, che non è stata magari molto famosa nel momento in cui è uscita, però non molti anni fa ha riavuto un grandissimo successo perché era dentro la colonna sonora del capolavoro di Tarantino Pulp Fiction. E se vi ricordate la scena in cui Uma Thurman e John Travolta se ballano uno di fronte all'altro in quel locale, quella canzone è una canzone di Chuck Berry ed è You Never Can Tell del 1964, e non posso altro che rifarvela risentire. Chuck Berry, You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Che pezzone è questo e che gran filmone è sta Pulp Fiction. E comunque, per ritornare a Chuck Berry, sicuramente la sua opera è stata fondamentale per liberare il rock and roll dalle pastoie del conformismo, e gli fece assumere l'aspetto di una vera musica di rottura. Al di là del fatto di aver creato dei brani stupefacenti a cui i posteri attingeranno a piene mano negli anni, ma anche per il salto di qualità rappresentato dal suo modo di fare musica, lo si deve considerare, secondo me, il primo grande musicista del rock. Perché dove Bill Haley era stato soltanto un simpatico ciccio bombo arrivato quasi per caso per primo, e invece Elvis the Pelvis in Memphis era stato una più che altro una maschera consumistica che l'America bianca e borghese aveva voluto dare al rock and roll. Invece Chuck Berry, secondo me, è stato la prima vera autentica figura di riferimento del rock and roll. In Chuck Berry si coglie per la prima volta il carattere profano, appunto, del rock and roll, lo stacco netto rispetto all'etica del country e anche al fervore religioso del gospel. Con Berry si rappresenta veramente un punto di incontro fra la civiltà dei teenager, degli adolescenti bianchi, e quella dei neri americani, appunto, che è poi in fondo il nocciolo vero del rock and roll. E dimostrò un'abilità unica ancora prima di Bob Dylan nell'esplorare la psiche degli adolescenti e nel manipolare le loro alienazioni e il loro istinto di ribellione, appunto. E a questo punto non mi rimane che lasciarvi, come sempre, come il format della trasmissione mi impone, al concerto di stasera, ovviamente concerto di Chuck Berry, che in questo caso ho scelto per voi un live al Toronto Rock and Roll Revival Festival del 1969, festival che seguiva in terra canadese le orme di Woodstock e di Monterey, quelli che erano stati i due grandissimi festival fatti appunto nel 69, alla fine degli anni 60 negli Stati Uniti, e questo, se possiamo dire, che è un po' la versione canadese di questo onga lunga, di questa onda lunga. E possiamo, ci riascolteremo via via tutti i grandi successi di Chuck Berry suonate dal vivo da lui e dalla sua band, conditi anche insieme ad altre chicche e a varie chiacchiere tra Chuck Berry ed il pubblico. E quindi non mi resta a questo punto che lasciarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Tonight Alive sabato prossimo, per quella nuova, o se no non vi stancherò mai di ricordarvelo, perché se fosse perso la diretta di stasera, Tonight Alive verrà dato in replica sempre alla stessa ora, alle 10:30 il giovedì, quindi potrete recuperare a aver perso la diretta, o se no, se proprio siete degli impenitenti, andatevi a ricercare i podcast, che tanto puntualmente, se non è domenica, se non è lunedì, a esagerare martedì, il podcast è sempre presente sul sito web della radio per riascoltare la trasmissione quando volete. E quindi dal vostro Dalai Lama, buon sabato sera, buona settimana, buon tutto, un abbraccio e a sabato prossimo. Radio Wombat, Tonight Alive. Wombat. All we hear is Radio Wombat.